avanti. E beh, Troios. E beh, Stefano. Buonasera, Nathalie, buonasera. Ma come mai sei basso di segnale? Non posso uscire più forte. Perché il turbo, sono con questo baracchinetto così, perché mi a controllare. Ah, ho capito, saluti a Concettorsa. Egli ha già te la saluto, è andato a pigliarmi le sigarette, ma già te la saluto come sale. E tu e tu a Sassari. E io, sei Natalia Sassari. Sono qui, cercando di fare qualcosa. Sì, alcune volte ti sento bene, alcune volte no. Capito, con di modulazione sto parlando. Ehi, ho questo microfono normale, se non lo metto vicino così mi senti male magari. Sì, così adesso è perfettissimo. Lo so. All. Io sono bisogno abituato e mi fa questo difetto qua. Se me lo allontano fa quell'effetto. Ho capito. E andava bene. Anda bene meta, non sta più entrando nessuno, a me mi sa che questa frequenza sta morendo. Che vuoi ti dica, sta morendo. Evidentemente non tutti sono liberi in Natalizio, c'è chi lavora, chi non lavora, chi fa, non tutti sono magari disponibili a fare quelle ore o quei momenti sulla, dietro la radio. Io li capisco, magari hanno altro da fare. Sì, mancati ci sono, ecco così. Sono mancati? No, si sono stancati. Può essere anche che uno si stanchi. Potrebbe anche essere. Ma c'hai le bande laterali, Natalì? No, c'ho questa scatola di fiammiche. Se no, abbiamo fatto delle prove. C'è solo M, F, M, no, forse la M. Infatti stavo cercando un omologato perché riceve anche male, gli ho dovuto attaccare una collodina esterna, se no riceve proprio male con la sua. E adesso stai uscendo anche con un fischio. Un fischio? Adesso no, ma prima sì, con un fischio sotto, E ce l'hai anche tu, è uno che mette la portante, ma non arrivi da no ganchi. Ah, ce l'ho anch'io, allora va bene. Allora va benissimo, sanno cosa fare, lo vedi, invece entra a parlare e si mettono a rompere le scatole. Attenzione Marco, se sei all'ascolto. Va bene nera, avanti te. Natali, sei sparito? No, già ci sono qua io. Scusa, ma mi sono spostato, cioè ho toccato un tasto e sono andato a finire da un'altra parte. Aspetta un attimo che devo essere che è rientrata mia moglie. Eia. Sono rientrato. Eia. Era mia moglie che era andata a prendermi le sigarette, capito? Ho capito, ma non puoi fare niente per mettere un'antenna diversamente, vero? Che cosa puoi fare? Ci vorrebbe una scala aerea, ci vorrebbe salire da giù. Lo so, ho capito. Purtroppo, bisogna accontentarsi. Vabbè, se... loro hanno detto così, adesso qua. Sei uscito a metà, ho capito, però non è possibile perché bisogna pagare 500 euro per fare vedere quelli là, capito? Vuol dire che se lo possono permettere, non lo so. Appunto, dico, se c'è gente che ce ne ha quei soldi che voglio spendere 500 euro per fare chiamare quelle persone, allora va bene. Ma altrimenti sappi che ci vogliono 500 euro per chiamare quelle persone, non è che le chiami e vengono così. E loro dice che avevano messo una... che avevano mandato una lettera, non so se li hanno visto. Magari l'hanno detto, guardate che ci vuole 500 euro qua. Una cosa è certa, se io sono tutto regolare, loro vedrai che non ne vedono più televisione, perché come escono quelli là, metto quell'altro, e ne capo pizza e ti guai e tu. E allora si ruggiamo a vedere, tu sei Stefano. Sì, sì, ho copiato. Un attimino, devo fare una chiamata veloce in basso. Un secondo solo, ho detto uno su. Vai, vai. Chi è che fischia? Marco, ci sei? Attenzione Marco, se sei all'ascolto. Fallo col culo adesso. Maleducato. Canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Attenzione Marco. Quindi? E quindi? E quindi siamo qua. Io sono attaccato all'alimentatore del telefono, mi fa un QRM nella radio, allucinante. E vai, l'alimentatore del telefono. Ehi, devi vedere cosa tutto mi combina. Quegli alimentatorini piccoli, piccoli, piccoli. Beh, è una cosa da non credere. Io ho di quelle batterie che ti caricano il telefono e poi le metti a caricare. Sì, ce l'ho anch'io. Ce l'ho anch'io, non mi ricordo quanti miliampere, ma abbastanza discretamente potente, diciamo. Solo che questo alimentatore qui, anche ieri sera mi faceva casino qui sulla radio. Sentivo un sacco di QRM, ho detto, ma che strano, non capivo da dove veniva, guarda, non lo capivo. Poi ieri notte, quando ho tolto la radio, ho spento, ma che tolgo l'alimentatore, magari è quello, mic era quello che faceva casino. Adesso l'ho rimesso un attimino perché la telefono mi sono dimenticato, però diciamo che sono attaccato al computer e così almeno mi carica dal computer. No, ce lo butto questo alimentatore. Capo. E magari serve in altre condizioni, ma qui no. A te un attimo che la 50 perché dopo. Hola, hola. Hola. Sono ritornato, Ehi, c'è qualcuno qua? Non ne è uno, Natalì. Che matto, sei stancato, già fai da la televisione, mi sembra al baracchino. Infatti, tu, secondo come fa, mi cavo tutto e basta. E così ho finito di... Certo che sarebbe brutto che attraverso magari riesco a risolvere la situazione e non c'è più nessuno. Non lo so, sai come sono le manie, vanno e vengono. Sì, vanno e vengono, se non c'è nessuno, per forza col muro devo stare a ascoltarmi il QRM. Natalì, ci sono altre cose da fare in 27, non solo il QRM. E cosa fai in 27? Non per più nulla da fare. Non è vero. E vuol dire che tu sai qualcosa che io non so. E puoi fare il sistema digitale. Ma ci vuole interfaccia, l'apparecchio come si deve. Non ne ho io di quelle robe, non c'ho più nulla, no. Col baracchino lo fai, senza interfaccia. Vabbè, me lo spiegherai. Vabbè, adesso non ti dico niente qua, sennò poi ci sono gli orecchi di porco, capito? Infatti, ascoltando saranno in 100.000. Sì, infatti, quello senza dubbio, però, ti ripeto, il 27, se non c'è da fare qui, c'è da fare da altre parti, non è che... Se non c'è un baracchino normale, si può divertire anche con altre cose che si possono fare tranquillamente. Il computer, già ce l'ho. Eia. Solo che non mi ricordo più nulla. Ci vogliono i programmi, tutto, mamma mia. Mi assento un secondo. Ehi. Stefano, ci sei? C'è qualcuno qua? Chi è? Alla prossima volta ti mando a fanculo direttamente. Io l'ho fatto ieri. Ciao, Matteo. Ciao, Giù. Buonasera. Ehi, c'è questo imbecille che tutti i giorni si mette a fischiare così, però non parla mai. Si vede che è mudo. Ma fa altre cose oltre che fischiare, capito? È anche maleducato. Te l'ho già detto. Adesso andiamo con Radio Goniometro a cercarlo. E così poi lo denunciamo. Molto ci vuole. Individuiamo dove è la sua antenna e lo denunciamo. Infatti bisogna denunciarle queste persone, basta. E allora, adesso sono salito io, mi sono acceso adesso, tutta la sera al computer. Anche io. Mi stavo guardando questo sistema digitale, mi stavo guardando per vedere se riesco. Però non sono riuscito a scaricarmi il programma. No, no, non lo so, non l'ho mai guardato io. Io non l'ho mai guardato, perciò non ti posso nemmeno aiutare e dirti come si fa. E io già basicavo. Adesso vedo un po'. Tanto qua non c'è più nessuno. Dopo entrendi più nessuno, Giulio. Ma ieri sera, tutta la sera c'è, tutta la sera. Non è entrata un'anima. Sono questo deficiente che fischia ogni tanto. Ma deve essere sano, non deve essere sano il gabbo questo qui. Questo qui è da recuperare al manicomio. E vai, va. Va, cosa vuoi che ti dici? Ieri sera c'era lo stesso, stava sempre fischiando, fruscia fruscia, giù di tu. E ti canta lo gucco. C'eravamo io e Stefano poco fa e boh, e non è entrato nessuno. Non so, è stato lì, non ci sto più io tutta la sera lì. Così lascio acceso, se sento qualcuno salgo. Diversamente non ci sono tutta la sera lì davanti alla radio aspettando che qualcuno si faccia sentire. Sì, ho capito, perché abbiamo fatto il QSO con Stefano. Stavo chiamando io da presto. Forse non l'hai sentito quando eri giù. Probabilmente no, perché se no sarei salito. Cosa ci vuoi fare? Era un po' silenziato, se no senti sempre il rumore di fondo, il rumore QRM, e non è che posso stare tutta la sera con questo rumore all'orecchio, no? Ho chiamato a Marco per vedere se c'era, che tu si vede a Boruli se invece entra in radio. Che vuoi che ti dica? La sera si guarda Boruli se si guarda. Se la sera di quella gioco di gatto io Boruli, si fa carità, è poco neanche pratico, ma non è un cazzo che non è altro, per carità. E a lui piace, se lo guarda, lasciamo di non guardare, e cosa ci vuoi fare? E beh, vedi beh, Milo mia Stefano me. Ah, Milo a Marco, perché c'ha il visto a te. Ciao Marco. Ehi Nathalie, sai perché non sto entrando? Vi sento dalla cucina. Oggi cucina orientale. Nagi Goreng e un Voltini primavera, sto cucinando io. Ma tu perché ci metti? No, ma è tutta roba precotta, quindi è facile da fare. Ma vai, minestre e fagioli, come ho fatto io, da giù questo pezzo di bandetta, uno spettacolo. Spettacolare, chi altro c'è qua? Buonasera. Ci sono io, ciao Marco. Ciao Giulio, oggi per ovviare alla monotonia della cucina italiana, i voltini in primavera li ho scongelati e fritti, perché erano quasi precotti, no, basta friggerli un po', ci sono venuti croccanti, un bijou, poi salsina agrodolce per gli involtini, e poi questo Nagi Goreng che è già pronto, è un riso a base di, sì, un piatto a base di riso, verdure e carne, di pollo, capito? E c'è quasi pronto, e li ho preparati io oggi. Eia, guarda, hanno portato da Lidl un sacco di roba buona, orientale, naturalmente non è orientale, è fatta in Germania e quindi con tutti i crismi. Dai, buonasera a tutti, vi devo lasciare e so per impiattare, ciao ciao. Impiatta. Io ci rimaniamo quando io arrivo a portare. Al ristorante cinese li ordinavamo. Mangia direttamente dalla pentola, così almeno non fai nemmeno la fatica di lavare i piatti dopo. Ah cosa, questa roba va malissimo. La matessi cosa era mia che fai giù che ci partito, ci puoi un pevarone in piazza di lusso. Scusa un attimo che sto mettendo a punto la radio, che ho cambiato le batterie e sto mettendo l'orario giusto dalla radio Linas. Ti prendi tanto da te. Eia, andà bene mela, metti le batterie. Questo Marco è stata una roba alle 7 di sera, non lo so io, è ora di pranzare. E allora, tutto fatto, te, messo l'orario anche, questo perché ho una radiolina che ha l'orologio anche e poi a tutte le bande. Ha tutte le bande, onde lunghe, onde corte, proprio bellina, una bellissima radiolina. Piccola, molto piccola, però molto elegante, molto bella. Ma tipo il ricevitore che riceve tutto? No, no, una radio normale, AM, FM, una radiolina normale, che è molto, molto bella, me l'avevo regalata di Natale. Ma ne ho di radio, io ne avrò, senza esagerare, all'incirca 28-30, di tutti i tipi, grandi, piccoli, auricolari, portatili, con la corrente elettrica, di tutti i marinaci. Ne avrò 28-30 radio più o meno. Io capisco. E io non c'ho più nulla, ovvero me. Mi è rimasto questo per poter parlare. Oiaia. Speriamo che si sbrighino, se è vero che li hanno chiamati. E chi lo sa, ora speriamo bene. Poi ne ho 6 antichi di radio, di quelle valvolari di una volta, quelle a mobile, ne ho 3 che sono col giradischi, 3 col giradischi, sì. E gli altri invece normali, onde medie, onde lunghe, eccetera. Sì, ho capito, ma senti e finito, finito tu di vestimento, sta venendo gente, sentiamo alle prossime, dai, anch'io devo chiudere, tanto per quello che c'è, siamo noi due e sentiamo alle prossime, buon proseguimento, dai, grazie per il tuo SEO. Ok, ciao Natali, ciao, ci sentiamo. Grazie a te, alle prossime. Adesso me ne passo sul 23, vediamo se c'è qualcuno che mi piace. Diversamente spengo e me scendo di nuovo giù. E non si va abitualmente a domani. Tutti morti anche sul 23, tutti morti. Vediamo il PMR. Te l'ho detto a te che stai fischiando, cosa devi fare? Te l'ho detto ieri sera. Non l'hai ancora fatto. Bene imbecille, sì. Sul 345, Natalino, ci sei ancora? Sempre in ritardo. Chi c'è? Come chi c'è? Non mi senti? No, scusa Gianfra, che avevo rapidamente cambiato canale. No, c'era Natalino e Giulio poc'anzi, poi ho finito di mangiare, non... forse hanno chiuso. E allora Gianfra, come andiamo? Ma devo dire, più in macchina che a piedi. Ehi, non dirlo a me, io vivo in macchina a piedi ben poco, me ne va della mia salute fisica e anche mentale, se vogliamo dirla tutta. Vabbè, oggi abbiamo mangiato qualcosa di diverso, da Lidl, quelle cose orientali, buone, buone, devo dire, veramente buone. Poi sai cos'è, roba fatta in Germania. Per fortuna, dico, non è roba vera fatta in Thailandia, in quei posti là, perché a quel punto non mi fiderei. Chissà, davvero, se il pollo è veramente pollo, se è cristiano, se è cane, non lo so. E vabbè, che è fatta in Germania, è relativo, perché magari sono permissivi e ci mettono dentro qualche toppo, qualche cosa, no? No, no, ma speriamo di no. No, dico almeno è roba europea, non... Perché anche quando vai da quelle parti, Thailandia, sai lo street food, le condizioni igieniche sono molto ambigue. Ho visto anche un video di un ragazzo che andava a mangiare in strada, pur però... A fine assaggiata aveva la faccia sconvolta come quella di uno che si sta facendo addosso. Perché il nostro organismo non è abituato a tutti i microbi, eccetera, ma quello te lo becchi anche se vai vicino, in Tunisia, in Libia, non è capito. E lì la carne non la mettono, la espongono fuori, sono tante belle mosche che camminano. A proposito di quello, in Egitto fanno questo pesce, il fecic, e tu dici come lo preparano? Niente, non fanno niente, lo pescano, lo mettono al sole, mezzo a marcire, o comunque l'aria mezzo a marcire, quindi mosca e coso, e dopo se lo mangiano mezzo fradicio, ho capito, si chiama fecic. C'è anche un video su YouTube di uno che, di un egiziano che lo fa assaggiare a vari passanti, no? Una signorina l'ha sputato, a un cuoco giapponese o cinese è piaciuto, perché vabbè loro, insomma, non sono messi molto meglio, fecic, mezzo putrefatto, quindi non si sa mai quello che ti capita, magari a loro non fa niente perché magari sono abituati a mangiare queste porcherie, ma se lo mangia l'italiano minimo si prende tifo, salmonella, quant'altro. E vabbè, ognuno ha i suoi geni, il sistema immunitario in base alla, al posto. Allora in India dove c'è il Gange, mamma mia, devono essere tutti immunizzati, perché ho visto gente facendosi il bagno nel Gange e uno a pochi, a 3 metri, 4 metri che faceva la cacca nel Gange, nel fiume. All'anima, si fa del bagno nella M, già hai capito. Sono da generazioni abituati proprio, capito? Sono diventati forti, se ci vado io, guai. Bene, bene, mi sarebbe piaciuto imparare a usare le bacchette orientali, lo sai, provare, ho visto un video su YouTube, vabbè loro ci sono nati con le bacchette. Cioè per loro è naturale come per noi è naturale la forchetta. Loro non capiscono il nostro metodo e noi non capiamo il loro. Questione di gusti. Comunque nel Gange se non hanno cambiato abitudini, ma poco ci credo. Oltre a quella roba ci passano anche i cadaveri che devono navigare un po', no? Figurati. Quelli si fanno il bagno, si... Oh. Questa acqua marrone proprio che c'è l'acqua a poco, mi secondo me c'è più cacca degli abitanti che acqua, e vabbè, e loro sono abituati. Bene, bene, vediamo se Giulio è all'ascolto. Giulio o Natalino, ci siete rientrati? No, non è entrato Natalino. Ogni tanto Natalino, quando sente che c'è poca gente, questa è la volta che smonto tutto, ci butto tutto, l'avrò detto già 10 volte da qui a un annetto. E vabbè, qua la gente ce la fa, cioè Claudio per esempio è occupato per questa storia della casa, oppure sta andando a Ossia a fare lavoretti, quindi non c'è ben altro da fare che entrare in radio. Spero che nemmeno in PMR c'è nessuno oggi. Sento qualcuno che biascica sul ponte Cigar. E vabbè, vuol dire destino. Adesso ne mangio un po' di frutta e un dolce. E così sono al completo. Vabbè, quindi vai a ripensarti. Cos'è questo? Cena, pranzo, colazione, cos'è? No, pranzo. Tu scommetto avrei minimo cenato e io sto pranzando. Perché, vabbè, prima fame non me ne è venuta. Ho fatto l'errore di fare colazione più tardi oggi. Di solito lo faccio alle 9. Oggi l'avevo fatta minimo alle 11, 11 e mezza. E quindi mi viene la fame più tardi. Mamma l'ha portata addirittura alle 8 la colazione, pare, se non prima, ma dice Marco la colazione, io no, ho fatto un verso, non ero in grado di intendere volere dal sonno, capito? Né di parlare né di camminare. E poi vero che non so che sente raffreddato così. Guarda, il mio naso è sempre, vabbè, c'ho il setto nasale deviato, più la mucosa è sempre gonfia, cioè riesco a respirare adesso, ma non è mai pervio, capito? Che poi questa sarebbe la mia voce normale, più o meno, ma abbastanza nasale. ed alzare dietro adrenalina, acqua di mare da spruzzare per decongestionare la mucosa, boh. E insomma, chi c'è malanni se li tiene, né? Eh beh, su questo non c'è un gran dubbio, sono come le cambiali che c'hanno una volta, chi ce l'aveva se le teneva. Come le tasse, brutte erano le cambiali, mi ricordo, mamma mia. Ma adesso esistono ancora le cambiali oppure hanno usato finanziamenti, altri metodi di pagamento ratizzato? Beh, adesso ci sono le finanziarie, no? Oramai si compra tutto con la finanziaria, anche la macchina si può capitare, secondo chi c'è che se paghi in contanti non ne vogliono, preferiscono vendere la finanziaria perché per loro è un investimento, una cosa un po' discutibile mi sembra, però è anche un po' strana, comunque qualcuno lo fa. Sì. No, ma dico, le cambiali esistono ancora oppure sono proprio una cosa del passato? No, non esistono più. Ci sono dei titoli di credito, quelle cose lì, bancarie, ma per cifre non certo molto grosse. Ma non credo, sicuramente non esistono più, non sono più viste, se una certa unità mi ricordo per il piccolo. Ma adesso oramai vai in finanziaria, firmi, se c'hai disponibilità va bene, se non c'è un tubo non operano. Esatto. Tanto in contanti non puoi più comprare niente, è vero, macchine, moto, in contanti non puoi pagare, no, cioè non è che ti pigli 15.000 euro la macchina sull'unghia, non si può fare, mi pare. Così sapevo io. Puoi avere grosse somme appresso o comunque ritirare grosse somme dalla banca, boh, no. Bisogna chiedere a mamma questo, che ha il conto, io non ce l'ho il conto. No, dunque, questo dipende dalla maniera di qualche concessionario, perché se tu ci vai non paghi in contanti, paghi con assegno, per un assegno quello o la carta di credito, lo fai per quell'importo, per quell'acquisto che devi fare, fanno le verifiche, tutto quello che vogliono, e va bene così, ma loro non lo vogliono fare perché ci perdono dal punto di vista del credito, capito? Perché la finanziaria vuole guadagnare molti soldi, è il loro lavoro. Brutti farabutti. Praticamente con la finanziaria la paghi di più la macchina, no? A rate ma di più. Eh beh sì, con gli interessi. Poi possono essere pochi, molti, dipende dalle varie occasioni. Capito? Pagare se la fanno pagare in ogni modo, no? Gratis. Ma bene. Vedo che anche oggi non niente da fare. Va bene, sto baracchino proprio, sta diventando mezzo deserto. C'è sempre la scusa, in estate la gente è fuori, primavera niente, lo stesso. O meglio, in autunno, in inverno ci sono altre scuse. Sono sempre il PMR, il gruppo là. Una malattia questo PMR. Ma c'hanno il 23, perché stare in PMR? Boh. Cosa cambia? Tanto sono tutti uno attaccato all'altro, nessuno può mettere portante lì. Boh. Va bene, ma l'ha detto il giorno che io i pomponi glieli abbiamo messi in testa, perché siamo stati noi che abbiamo messo la pulce nell'orecchio alle persone e ce l'hanno preso tutti. Se poi ci sono stati zitti magari non avrebbero mai preso. Vabbè, comunque un'altra. Sono debuttati quegli apparecchi digitali, non li abbiamo più usati, ormai da 2 mesi sono diventati 2 mesi e mezzo che non li usiamo, proprio sono debuttati. Ma lo dovevo prevedere io, perché vabbè, Pomponio lo stesso quando entra entra dove c'è gente, capito? Non due disperati da soli in un canale digitale. Va bene, non fa niente, ma lo venderò. Il problema è a chi rifilarlo, perché non voglio, io piango per te. Millomi, parli del diavolo e spuntalo le corna. Antonio, da quando è che non siamo più quelle maledette radio? Dillo tu, quanti mesi sono ormai? 2 mesi sono. 2? E anche qualcosa di più, dai. E Antonio, alla fine è stato un acquisto sbagliato, perché vedo che tu lo stesso entri dove c'è gente, perché ci si diverte di più a stare come due disperati da soli, non c'è divertimento, capito? No, divertimento c'è, già lo sai, fa schiattare a Claudio. Stamattina io ho trovato a Claudio e ho detto ti faccio schiattare, tu sai dove sono, parliamo io e lui e tu ci cerchi, gli ho detto. Ah, ehi, aspetta, non mi ricordo cosa gli avevo detto, a Claudio avevo dato un indizio importante, non mi ricordo se avevo detto TDMA o FDMA, insomma, il sistema il tipo di trasmissione della radio, insomma, e lui stava cercando le impostazioni sul suo portatile analogico, aspetta, shift, coso, code, subtono, non l'ha trovato TDMA o FDMA, non poteva trovarlo, non c'entra nulla. Io ho detto stamattina non ti preoccupare, quindi vabbè non è che cambi molto, perché non ci capisci di te lo stesso, quindi a un certo punto siamo lì. Vabbè Antonio, non ho capito niente di quello che hai detto. Gianfra, capito? Sta cercando la funzione sul portatile analogico. Vabbè. Comunque qua anche Claudio ce l'ha uno digitale. Solo che non c'è occasione di usarlo. Ah, non c'è voglia di usarlo, ma a parte Claudio gli altri poi stanno entrando bene o male o nemmeno loro. Guarda, non ti so rispondere perché anch'io per altri motivi sono assente. Quindi onestamente non lo so. Probabilmente li stanno usando. Però, ti ripeto, no, io ce l'ho sempre, in macchina è sempre operativo perché il mio è automatico, quindi è un diverso tipo di apparato, sono diverse generazioni. E poi lo lavora da solo, non c'è bisogno che ci sia una persona, capito? Quindi ti dice dove sei, ti dice dove l'altro apparecchio, in maniera molto precisa, insomma dialogano da solo. Aia. Oh, quante menate, vabbè. Bene, Antone, vabbè, tutto bene, Giovanna è tranquilla, sì. Bisogna tenere la bada alle donne, eh? Antone, già sei tranquillo più rispetto a prima, vero? Sì, abbastanza, visto? A volte bisogna fare le cose che è il mattone, così almeno si mettono le cose a posto, bisogna fare il corso e si chiamano le cose. Non mi dire che vuoi diventare radioamatore, no? Oh, hai un ronzio appresso, come mai? Non lo so, la verità non so cosa dirti, ma cosa ne sento? Siamo a Torino? Non c'è un motorino, grazie a Dio. Deve essere una ventola, Antonio, sento sì, tipo motorino, così. No, ho capito cosa stai dicendo. C'è le dall'altra parte. E c'è uno stereo che fa così. Oh. Ma solo quando parli lo fa? No, sta in pratica, ascolto musica, capito? Tutto lì. Eia, ascolta, ma quindi Gian Piero adesso chi lo sta? Solo Giovanna lo sta tenendo d'occhio oppure ogni tanto dovete andare anche voi? Com'è che funziona? Tutti e due siamo, beh, io sono sono il responsabile più che altro. Poi c'è anche lei. Vabbè, siamo in due, quindi a un certo punto, oggi stasera c'era mia nipote, quando stasera a casa, quindi a un certo punto. Scommetto che ti ha mangiato tutto quello che c'era in casa. Più o meno sì. A mangiare viene tua nipote. Esatto, sì, si è mangiato quasi tutto, cazzo. Eia, mamma mia, che rogna che l'aspetta. Vabbè. Va bene, non ci metto parola su quello, dai. Io d'altronde sono esagerato nel senso opposto. Casomai mi faccio la vasectomia, ma figlie non ne voglio. Preoccupazioni, poi non ho la situazione stabile, ci mancherebbe. Bene, io quasi quasi vado, come ho detto prima, a mangiare il dolce, la frutta, dai. Sentiamo un'altra occasione, Antonio, quando vuoi uscire, che vuoi fare una bevuta, un giro, passa e mi chiami, se non ho niente da fare, ci facciamo un'uscitina, ok? E se vuoi anche adesso, se non c'è nulla da fare. No, adesso ho da digerire, Antonè. Mi viene la biocca dopo ho mangiato, lo sai. E beh, ho la matotte e ti pigli con la mia fuga, anche io lo stesso, e poi entro a casa. Ti pare che io perdo il parcheggio da sotto casa per uscire adesso? No, se esco nel pomeriggio e torno a metà serata, lo preferisco. O comunque uscire prima e tornare a fine serata, ma uscire adesso no. No, dai, un altro giorno, già c'è tempo Antonè. Salutami Simona, ok? Saluta tutti. E vorrò finire di mangiare. Vai Gianfranco, dai, sentiamo. Saluto tutti, anche quelli all'ascolto. Ciao a tutti, ciao, vai Gianfranco. Sì, ok. Anche io rimango all'ascolto perché sto salutando, facciamo una micro saldatura. Ciao Antonello, niente, sono qua in ascolto, dai. E gli occhi in ascolto, d'accordo, non c'è problema. Sono anche io, qua l'ascolto al limite. Non c'è problema. Adesso vediamo un po'. Cenato, adesso vi faccio un bel giretto. Adesso vediamo un pochettino. Anche tu hai cenato, eh? E io ho pranzato adesso. 12 ore di 12 ore di spostamento, quanto è? Mamma mia, non riusciamo a tornare normali, vabbè. Ma per noi la normalità è questa, non dire che continuo a dirlo a tutti. Non è entrato almeno doppio room oggi, no? Neanche lui è entrato. Vabbè, se vuoi uscire, non c'è problema, fammelo sapere, mi chiami o non c'è problema. Ora sono a casa, quindi sono tranquillo. Non sai, andiamo l'amico, finiamo la cosa, poi se andiamo a casa. Non cambia nulla. No, a parte gli scherzi, Antonio, adesso no, non è ora, dai. Già, ci mettiamo d'accordo per le 4, le 5, dai. Mangio prima, la prossima volta esco prima, ok? Dai. Dovevamo decidere se pigliarci questa pizza, no, ma alla fine vedo che non... Non c'è la proposta, Antonè, non lo so, ci sono 10.000 pizzerie, decidiamo un giorno. Guarda, la pizza costa 5 euro, oggi è lunedì, insomma, c'è un altro, non è lunedì, ma comunque sia, lunedì e mercoledì, paghi 5 euro, vicino a casa tua, quindi a un certo punto basta telefonare e chiedere. Ma da sport o seduti là? No, te la portavo a casa, addirittura. Ma è più squallido, a me piace mangiare in pizzeria, cioè mangiarmela lì la pizza bella fumante, appena uscita dal forno, tutta un'altra storia, capito? Io qua ne mangio, non dico tutti i giorni, ma la mangio spesso la pizza a casa, ma a me piace uscire fuori. Guarda, a Lucernaio, vicino a casa, si mangia, ma è buona la pizza, niente. Puoi prendere come vuoi, piatti composti, è un ristorante e pizzeria, puoi mangiare quello che vuoi. E vabbè, facciamo la parli di te, facciamo così, ci organizziamo, andiamo lì e ci mangiamo la pizza, a Lucernaio oppure, boh, qua vicino a casa, cosa... Invece di quadrato, intanto, noi cambiamo molto la pizza a un certo punto. Antonè, ma tu al Tiffany, in via Carlo Felice, ci sei mai stato? No, io no, la verità. Ehi, lì non è da sport, lì mangi lì, hanno una bellissima terrazza. Certo, non in inverno, ma in estate hanno una terrazza che si sta bene, è un bijou mangiare lì in estate, all'aperto. Vabbè, adesso siamo in pieno inverno, quindi niente da fare. Però anche la saletta interna, capito? È bello il locale, è stile Liberty. Adesso andiamo noi questi giorni là, così ci divertiamo. Ti ho i soldi del comune, mi. Tanto è la prossima settimana a quanto so io, quindi ci divertiamo. Andiamo lì e ci prendiamo la pizza. Almeno una volta in vita mia, cioè vita mia. Dopo 15 anni che mangio la pizza in pizzeria e se la piglio in culo gli altri. Ricordati quella scatoletta, mi attivabile e disattivabile con i toni di TMF. Ti aspetta il negozio. Te l'ho già detto. Quello la avviniamo, te l'ho già detto. E anche il ripetitore addirittura, quindi... Ci divertiamo, la agganciamo a casa, siamo a casa la agganciamo a Usilo, non me ne frega niente. A me ci divertiamo, e siamo gli unici a Sassari ad avere l'opportunità di avere una cosa del genere. O gli altri se sono gelosi a far culo. E parla bene, sempre parlarci. È un porcaccione. Appunto, c'ho ragione, scusa. Ciao Gianfra, buonasera. Pensavo che non c'eri. No, sono rientrato perché ho sentito che stavi degenerando come al solito. No, va bene, c'è gente che ascolta anche se pensi di no. C'è una tanta di chi è questo eccetera eccetera. Comunque un interrogativo a Marco. Marco, vicino a te c'è anche una pizzeria, un'altra pizzeria proprio di fronte al cinema, si chiamava, perlomeno, magari non esiste più da anni, il Cervo Bianco, possibile? Sì, sì, me lo ricordo tanti anni fa. Credo che ci sia tuttora, ma forse con gestione vera. Sì, sì, Cervo Bianco, mi ricordo anche che la pizza era piccola e veramente banale. C'è il cartone grande, tirava una pizza un po' piccola. E lasciava desiderare, da sporto sì, perché conoscenze? No, io la compravo lì quando abitavo lì vicino, andavo in macchina, però ero ragazzino, vai. Eia. Guarda, le pizzerie proprio qua, nelle immediate vicinanze c'è, questo è in via Nizia, a fianco al bar, solo che è sempre pieno di gente buttata lì, seduta sulla soglia, cioè, ci sono sempre i bilui sulla soglia, non ho capito che funzione abbia, non sono amici, a me non piace vedere pizzerie con i bilui seduti sul gradino, capito? poi c'è una paninoteca pizzeria all'inizio di via Prunecetta, poi c'è questa, dovrebbe esserci ancora questa pizzeria in viale Caprera, e poi in via Gorizia c'è all'altezza del bar Firenze, prima della numero 5, questo lucernaio dove andavamo con i cb a pigliare la pizza, mi pare siamo stati un paio di volte, le altre volte siamo andati altrove. E poi vabbè, ormai è pieno di pizzerie, è anche uno scandalo, ogni 50 metri c'è una pizzeria, peggio dei Comproro. Ma l'importante è la facciano buona, poi ce ne possono essere quante ne vogliono. Tanto la pizza sicuramente va sempre, è una delle poche cose che va sempre, poi dipende dai prezzi. Io preferisco pagarla più cara ma buona, che a poco prezzo è schifosa, perché poi se fanno porcheria già la sette, fa anche male. È andato bene, Antonello. Allora, sì, preferisco pagarla qualcosa in più che sia buona, insomma. E io avevo un amico pizzaiolo la cui pizza era spettacolare, ma era una cosa, a parte la pasta buonissima, aveva proprio una ricetta segreta che aveva lui. Quella condiva molto molto bene, ma a me me la portava tipo gorgonzola, pancetta, ma cosa non c'era in quella pizza? Era una pizza, si chiamava pizza Ivan, era una cosa spettacolare, solo che poi me la porti sono rovinati a causa di una sparizione di un tablet, è sparito lui e il tablet, capito? E vabbè, poi si piglia la parte grande lui e quindi, vabbè, non fa niente, già ce ne sono una pizzeria, grazie a Dio. Antonello, sei rientrato? Dimmi. Eia. Sì, questo ex amico, guarda, dove ha lavorato ha fatto pizze spettacolari. A partire da via Bogino, una quattro formaggi che era una cosa divina, divina, veramente divina. Adesso lavo la campanetta. E poi lontano, basta che non ci andrei, perché appunto non voglio nemmeno vedere. Ce ne sono pizzerie. Guarda, in estate quando compio gli anni andiamo al via Carlo Felice. Com'è che si chiama? Te l'ho detto poco fa, Antone. I Stili Liberty. Bah, non mi viene più. Tiffany. Sì, il Tiffany. Che d'estate è una bellissima terrazza aperta di sera. E si sta veramente bene. Pizza buona. Ho visto che hanno messo un pizzaiolo che mi sta sulle scatole a me, però fa una pizza veramente buona, ben condita. Poi bisogna vedere se lo cambiano ogni anno, non si sa, non si sa. Invece mi hanno messo la pulce nell'orecchio i cb, mi stanno descrivendo questo posto, come si chiama, San Gavino, c'è questo ristorante pizzeria dietro San Gavino che dice che si fa pagare ma ti servono roba buonissima, la pizza non plus ultra. Sì, vabbè, ma paghi molto se consumi molto, se tu ti pigli una margherita e una Coca-Cola, paghi una margherita e una Coca-Cola e coperto, tutto lì. Certo, se uno comincia a fare due giri di questo, un giro di questo, è chiaro che il conto ti esce. Dietro San Gavino. E vabbè, purtroppo non voglio andare lontano, e qua è caro, è caro, caro, più mangi più paghi, giustamente. Io ci vado spesso, sono cliente da quelle, gli avvocati sono buoni, insomma, sono pure premiati per la pizza. Sono pure? Luri premiati a livello internazionale, cioè la portatore non ce n'è altri, ma penso neanche qua a Sassari come quelli, sono top, sono cari, sono professionali, fanno roba buona, mai avuto un problema, ho sempre fatto bella figura. Cari poi, bisogna vedere cosa si intende per caro, perché insomma un pranzo in due, sai che sia 40 a testa, però mangi da signore. Sì, poi te l'ho detto, dipende cosa mangi. Per esempio, quando con qualche cibi siamo andati un anno fa, insomma, tempo fa, io prendevo una pizza condita, proprio non margherita, ma una pizza che può essere una quattro stagioni, una capricciosa, e basta, e una Coca-Cola. Però loro facevano più giri, capito? È un giro di fame, è un giro di, che ne so, cose di mare arrosto, capito? Frittore di mare arrosto, capito? Più giri di roba. E quindi poi non era, come si dice, non era la romana. Si divideva in parti uguali, anche se io non mangiavo nulla, per dire, se mangiavo una noce, un'oliva, insomma, in parti uguali si divideva. Io ero più per fare la romana. Beh, certo che lì non lo puoi fare, non va bene, capito? Ci fa la figura la figuraccia, perché ti portano il conto nel subito contenitore, tu lo apri, c'è lo scontrino, guardi quant'è e poi paghi con la carta di credito o il contante, come ti pare, però insomma non è che ti fai vedere lì al tavolo, allora per te 10, per me 15, per l'altro è 11, cioè la sai io. Ah, vabbè, però vabbè, in passato tra amici era sempre la romana. Cioè io so che ho mangiato una pizza a 5 euro, una bibita da 3 euro, 2 euro di coperto, ecco, e mettevi quello. Certo, ti porta nel conto unico, però ognuno metteva la sua parte, capito? E una volta, sempre con amici, siamo andati a Sennori, abbiamo preso un piatto di pasta, non so fatto come, un ragazzino che era con noi si è pigliato gamberoni, ci è uscito un conto, gamberoni o non so cosa, se di peggio, e ci è uscito un conto alto, e noi abbiamo mangiato un piatto di pasta alla fine. Ecco perché dico, sempre meglio fare la romana. Guarda, a Sennori, anche lì ci sono andato molte volte, da Vito, menù, sotto menù, un po' monotono devo dire, a me non è che mi piaccia più di tanto, ed è 40 euro, prendi quello che ti pare ed è 40 euro. Quello è un problema per me, per esempio anche i cinesi in quel ristorante wok, no? Paghi un fish e ti puoi ammazzare di cibo, però io mangio poco, cioè io dopo una pizza sto già crepando, a malapena finisco una pizza, insomma condita, non margherita, una pizza mangio, punto, dopo non riesco a mangiare. Adesso te ne racconto una. Alla bandiera gialla, mi pare fosse una sera, non una mattina ma una sera, avevano organizzato questo prezzo speciale, pagavi 10 euro e mangiavi varie cose. Ho detto, perché no, buono, adesso io ricordo 10 euro, ti dico 10 euro, magari c'erano ancora le lire, magari erano 10.000 lire. Ma portano varie cose, un po' dell'uno per l'altro, ho detto buono, buono, un po' di questo, un po' di quello, ho detto buono, per il mio piccolo stomaco era. Poi arriva la cameriera e posso iniziare a portare i primi? Io come i primi? Ma perché non era questo il pranzo? Dice no, quelli erano gli antipasti, adesso cominciamo a portare i primi, poi i secondi, oi! Una cosa da fare schifo, una cosa, io dopo il primo mi sentivo già male, c'era una roba di, quindi vari antipasti, vari primi assortiti, vari secondi assortiti, insomma è una cosa da fare schifo, lì ci vanno i mangioni a fare quelle cose là, ma io non posso, io te l'ho detto Gianfranco, mi si è rimpicciolito lo stomaco, io mangio poco e spesso. Non potrei andare in quei posti dove paghi un fisso e ti puoi abbuffare perché mangerei poco e niente, e alla fine non, non c'è il tanto di pagare così. Ma lo ricordo sempre la bandiera gialla, a un certo punto mi giro sconvolto, vedo un signore anziano, un po' robusto, vabbè non mi la pagare, questi sono matti, ho detto, e chi se la mangia tutta questa roba? Vabbè, quello proprio per chi ha stomaci da struzzo enormi. Vabbè, lo stesso questo wok, io credo che pagassi quello consumato, invece paghi un fisso, così mi ha detto Gianni Lopirum, però sempre salvo imprevisti. No, più o meno i ristoranti ne conosco molti, ma dai cinesi mai, per le storie che mi hanno raccontato, ce n'era veramente da non scherzare, guarda, neanche scherzarci, cose allucinanti, già le trovi in quelli normali nostri, secondo dove vai, se poi vai da quelli cinesi sei bello che è servito. Guarda, ero andato solo da asporto dai cinesi e ti preparavano la roba al momento, che ne so, prendevo pollo, pollo e bambù, non so, una salsina, ma cosa, questa roba buona, i voltini in primavera, fatti sul momento, una cosa buonissima, spaghetti di soia con pollo e verdure, sempre però, non sai se è pollo, ma il sapore del pollo c'era, poi se è gatto non si sa, capito, come sapore, certo, poi non sai cosa c'è dietro, non sai cosa c'è dietro. Ma anche i ristoranti italiani fanno porcherie, mica, magari trovi schifezze a mezzo scadute, oppure trovi un porcile in cambusa, in cucina, non si può mai dire. Infatti non si può mai dire, per quello che bisogna andare sempre dove si ragiona con mente sicuro, poi la mano sul fuoco non ce la metti da nessuna parte, cosa è chiaro. Certo è che se pizzicano gli italiani la fangata è più grossa, perché gli sputtani, e se invece capita un cinese che nessuno conosce, in domani ne cambiano, ce ne mettono un altro, buonanotte, cambiano locale, fanno prima, capito? Per loro è più semplice, per quelli locali invece che sono conosciuti è una pessima pubblicità e li potresti anche rovinare. Dimmi, entro subito. Antonello? Entro bene con un attimo, rientro subito. Ehi Antonello, una volta abbiamo preso due panini e un fast food, no, tre panini, eravamo tre persone, stesso panino e fast food. È anche vero però che abbiamo pigliato dopo tre cornetti uguali, tre gelati, no, tre cornetti uguali a un bar, quelli confezionati tipo Algida, no? Siamo stati malissimo il giorno dopo, da uscire negli occhi, tipo feci fetide, nausea, vomito, di tutto di più, male alle ossa, guarda, proprio una vera intossicazione. Però noi la colpa l'abbiamo sempre data al fast food, però ci è rimasto il dubbio che potessero essere quei gelati magari scaduti da mille anni, sempre tenuti nel frigo, però sai, gelato mi serve una cosa così. Vabbè, c'è panna, cornetti confezionati, boh. Noi la colpa l'abbiamo data, ci cioè abbiamo pensato fosse il fast food, più che... Cioè, può essere verdura mal lavata, con pesticidi, l'hamburger anche se era buono, che ne so, non lo so, non lo so. Ma tu sai che abbiamo cacciato gli occhi tutti. Mi ricordo che sono tornato da scuola guida di sera a barcollando. Poi arrivato a casa, faccio un vomito, una cosa terrificante, poi un odore strano, insomma, una bella intossicazione. Tutti e tre gli stessi sintomi, stesso panino e però anche stesso cornetto. E adesso la colpa di chi è, boh, non si sa. Sì, mi è capitato anche a me, sempre quando ero ragazzo, e sono finito all'ospedale. Per carità, e ho dovuto credo a una pizza, qualcosa del genere. Fatto sta che mi hanno trattenuto un paio di giorni. Oh, ma la banda gastrica ti hanno fatto? No, meno male no, perché tanto posso di vomitare, la so già fatta io. Eia. Eia. Guarda, sono sintomi di tutti i tipi, male alle ossa, malessere. No, poi siamo stati 3 giorni che non ci vedevamo questi 2 ragazzi, no? Che sono fratelli. Poi ci ripetevano, tu sai, sono stato male, anch'io. Io ho avuto vomiti, quelli anch'io. Mal di ossa, male coso. Mi ho parlato anche delle cose più, no? Di avere fetti, da una cosa. E quelli anch'io, ho detto, ma. Io ho mangiato lo stesso panino, però anche lo stesso gelato, e adesso chissà quale. Non potevamo andare a protestare perché non sapevamo qual era l'origine del coso, del malessere. Mamma mia, l'unica volta nella vita che mi ha fatto male qualcosa, che ricordi, proprio male male. La vita c'è sempre una prima volta per tutti. Quindi, purtroppo è così. Ma una volta me l'ha preso invece quando ero in caserma, ho fatto male, ho dovuto passare, come si dice, stare di lì a letto. È arrivato il dottore e mi ha dato del carbone attivo, ma lo sai, quello militare è veramente micidiale, mi ha fatto subito bene e ho potuto riprendere il servizio. Poi quelle cose militari, chissà cosa ci manda, lo farà la Pirelli o l'AGIP. E tu cosa hai fatto, esercito? Sì, operativo esercito. No, noi mangiavamo bene, c'era anche, insomma, c'erano tante cose, c'erano messi ufficiali, insomma, era una cosa grossa, non era una caserma piccolina. No, è inutile dirti che a me mi hanno riformato, perché forse c'entrava la storia che ero figlio unico senza il padre. Vabbè, scoliosi, tanti accidenti, poi siamo stati un mese quasi mangiando poco per sembrare magri, per farci riformare. Tra il sovraffollamento e tutto, insomma, vabbè, a me non mi avrebbero preso comunque. C'è scritto, non ho messo nemmeno il motivo, dice, riformato in modo permanente per, non so, cose militari, riformato in modo permanente, non c'è nemmeno scritto il motivo, no, forse, era un insieme di motivi. Sono del povero, non ti voleva, allora. Purtroppo la schiena già si cominciava a vedersi un po' curva, poi la scoliosi, fino a rossare un po' così, poi quando avevo gonfiato in quell'affare, lo spirometro, come si chiama, cioè piglia tutto il fiato che hai e soffia, e l'ago aveva fatto e poi è tornato indietro, insomma, non ero adatto, dai, a quella vita militare, quindi. Invece quelli ben messi li hanno presi e stavano strillando quando gli hanno detto che dovevano rimanere, mamma mia. Mamma di turchi, abbiamo fatto la visita a Calais, caserma di Calamosca, mi ricordo, nell'80, 88 mi pare, 89, no, 88 mi pare. Bei tempi, no, io l'ho fatto molto prima perché sono ovviamente molto più vecchio di te, quindi molto prima. Fuori, anche io ho passato la vita lì a Calamosca, mi ricordo, che bei tempi. Vabbè, c'è chi si adatta di più, chi si adatta di meno, poi c'era la storia del nonnismo tanti anni fa, chi lo sa. Magari c'entra un soggettone che diventa poi uno scoppiato, no? Testa rasata, tatuaggi, militari, che ne so io. E magari qualcuno invece di molto convinto ne esce con la coda tra le gambe. Certo, magari è un'opportunità sprecata, non lo so. Vabbè, ma tanto non ho la, come si pelliccia, non ho la fibra né morale né fisica per aver fatto militare, meglio così. È una questione di gusti anche quella. C'è chi piace, c'è chi non è ratto. Quindi è una questione di scelta, capito? Anche quella è un'esperienza interessante comunque. Può esserlo. Vabbè, ma limita a chi non interessa poi la carriera militare, ma un anno sprecato. In Marina mi pare siano due gli anni sprecati, almeno a chi non interessa poi proseguire. I due anni sono bei però, mamma mia. Una volta era due anni, poi era un pochino meno, dai, se no andiamo troppo indietro. Vabbè, adesso ho fatto i professionisti, forse è meglio così, cioè ci va gente motivata, non gente che proprio non ne frega niente. Sarei sfangata mio cugino per poco, il mio cugino quello grande. Poco prima hanno tolto l'obbligo della leva, se no lui lo prendevano in sicuro, e sicurissimo, era un tipo sportivo, insomma ben messo. Sì, ma hanno fatto bene a tutti, meglio non avere una gente qua, per avere gente che non può fare le cose, meglio non averne. Ma sai cos'è Gianfra? Di questi ragazzetti di adesso che credono che tutto sia dovuto, che forse era meglio tenerla la leva, almeno i cosi li spezzavano, capito? Certi li spezzavano, certi li raddrizzavano, certi elementi. Adesso è tutto, non lo so, cose ai miei tempi impensabili, tipo quel ragazzo che a Caserta ha dato un colpo di coltello sul viso dell'insegnante, o quei genitori che hanno fatto ricorso perché il figlio alla media ha preso 9, no? Terza media all'esame. Secondo loro meritava 10, capito? Sono i genitori adesso che decidono che voto deve avere il figlio, ma roba la fantascienza, roba la fantascienza. Poi adesso bisogna essere più ipocriti nella tabella di valutazione. A miei tempi la maestra scriveva invece apatico, svogliato, non so, c'era un termine che potrebbe essere considerato offensivo adesso, ma all'epoca era normale. Ma tipo menefreghista, una cosa del genere. Adesso guai a metterlo, ti fanno caso ai genitori. Roba da matti, adesso i genitori vanno a scuola a picchiare certi genitori, no? Meglio dirlo, certi genitori vanno a picchiare gli insegnanti perché ne sono sospeso il figlio, ripreso il figlio, ma stiamo scherzando? Allora ci voleva davvero una passata di fascismo, a tenere le teste basse delle persone. Non si poteva azzardare, senti miei, se facevi una cosa del genere avrei finito ad andare a scuola perché c'era l'espulsione da tutte le scuole nazionali, perché il diritto allo studio per il povero si rovinavano. No, quella gente veramente di ladridi, ma infatti ci vogliono altre leggi. Sono altre leggi per quelle persone che non sono altro che delle cose inutili per la società, prese, data una sussa, perché è tanto inutile che le metti in galera che devi pure mantenere, ma stanno anche bene. Data una bella sussa e a calci nella sedere accompagnati a casa. E se i genitori si lamentano, però la calci nella sedere anche i genitori. Eia, poi la maestra delle elementari, se facevi il cretino, come è successo a me qualche volta, no? Certo, in faccia non ti colpiva, ma ti dava gli scapaccioni dietro la testa. Che scapaccioni? C'è volte anche a mano rovescio con l'anellone, no? E venivano i genitori a scuola a dire, mi raccomando, se si comporta male, due schiaffi che poi li do io il resto. Adesso no, adesso fanno il cacchio che vogliono loro. Possono fare tutto minori, li chiamano bambini, ma già 13 anni, 14 spacciano, violentano, capito? Fanno cose aberranti che noi non facevamo. Possono fare di tutto, ma sono intoccabili. Questa cosa è che non riesco a capire, sono intoccabili sia a scuola che cosa, però possono fare quello che vogliono. Capito? Bevono forte, a 14 anni spacciano, violentano anche compagne, perché è successo anche quello. Fanno di tutto di più, rapine, roba del genere, roba. Noi eravamo dei, almeno io ero un bambinetto all'epoca. Poi quando andavamo al preside, noi tremavamo quando ci mandavano al preside, che ne so, perché arrivava sempre in ritardo. Arrivavamo dal preside cagati, come si vuol dire, adesso non ne frega niente. Gli aggira lì, la fanno a pezzi adesso. E brutti tempi sono, brutti tempi. Non mi piace come adesso. E vabbè, certe maestre dell'asilo, eccetera, non è proprio quello, li scattano, li sbattono, così non si fa. L'asilo, io l'ho fatto al Gesù Bambino, in Viale Mameli, ma lì non ti toccavano, certo, non li potevano. Adesso le vedi, certe escono in testa, non sono fatte per crescere, per amministrare bambini piccoli, li sbattono a terra, di tutto di più, certo. Però la maestra delle elementari già ti dava una raddrizzata, te la dava. Adesso è uno schifo. È una cosa, poi anche come parlano, è una cosa terribile, no? Non sanno niente, niente, niente di niente, capito? A livello di istruzione, poi dicimi la maestra Carla, la maestra Giulia, giovani, la mia era una maestra di quelle già sessantenni, quelle col camice nero, che come arrivavano in classe dovevi stare bravo. Cioè, era bravo come maestra, no? Brava come insegnamento, però non le dovevi rompere le scatole, se no davvero ti dava uno sganassone, uno scappaccione, lo chiamavo, perché era toscano. Era un po' classista come maestra, me ne accorgevo, però è stata una buona maestra, come riconosco che è stata una buona insegnante anche quella delle medie. Adesso è un bordello comunque, tipo quei video scuola Joe, dove vedi gli alunni spartendo i banchi per terra e il professore è lì davanti che non sa cosa fare. Anche perché, diciamo la verità, siccome mamma ha insegnato fino a poco tempo fa, i presidi se la fanno sotto per paura che gli graffino la macchina. Il preside, senza far nome, della numero 5, si dava latitante, cioè non voleva sapere nulla, né sospendere né punire alunni, perché temeva per la sua economità o per quella della sua macchina, capito? Era latitante, se mandavi uno perché aveva, che ne so, fatto un livido al seno della compagna, fatto apposta, certificato, ma quei lividi li mandava al preside, non farlo più, e lo mandava in classe, no, non esiste. Oppure si dava l'attitante, cose viste da me, ci vuole un preside un po' di pugno, capito, con le palle. Il problema è che non vengono educati né i genitori né nessun altro adesso, né i giovani né i genitori vengono. E vabbè, non faccio un passaggio troppo lungo, mi manca l'aria, poi mi viene fame d'aria, però il senso già l'hai capito, sì. Avanti. No, ero io, mi è scappato il dito. Ok. No, la numero 5 tra l'altro me la ricordo bene, perché è stata la mia scuola tanti, tanti, tanti anni fa. Che sarebbe quella che c'è in Gaurizia, per intenderci, no? Giusto? Sì, sì, anche la mia è stata. Per esempio, le elementari le ho fatte parte in via Garavetti e parte in via Gorizia, all'elementare via Gorizia. E poi la scuola, lo stesso, la numero 5 è stata quella. Ogni tanto ci mandavano in via Zara alla colonia campestre, le sedi distaccate, no? E un po' alla centrale. Però appunto noi temevamo i preside quando ci mandava, adesso non temono più niente questi vanno a menare i professori, i ragazzini di 13 anni, roba là. E vabbè, cosa ti dica? Ma pensa che poi i fili dei loro, di questi dei randaggetti di adesso sono ancora più randaggi, come li chiamo io. Figurati. Lascia fare, purtroppo. Tali genitori, tali figli, c'è poco da fare, perché la colpa dei figli e dei genitori soprattutto. Eia. E poi peggiora di generazione in generazione, ricordati. Se uno non è stato educato e abituato a fare i porci codi suoi, che ne so, a lavoro, con le persone, a scuola, meglio sarà il figlio, capito? Vabbè, certo che fare insegnante adesso, ma a seconda di dove sei non è una bella cosa, non è una bella cosa. Eppure mamma, nonostante tutto, avrebbe voluto insegnare ancora, lo sai. È stata, vabbè, è andata in pensione perché era fare obbligata, però avrebbe insegnato ancora se gliel'avessero permesso. Ha detto anche gratis, pensa. Non ha un'idea di quello che le aspetterebbe. C'è gente che, poveretta, veramente non poteva andarsene, perché è una cosa veramente triste, pesante e triste. Ma force lì, a lei sono capitate ancora classi, sì, casinissimo, forse tutti bene o male parlano, però cioè, fanno un po' di ciabotto, però ancora era gestibile. Quando faceva supplenze, anni fa le era capitata, abbastanza anni fa, le era capitata una classe di orsi alle medie terrificante. Bestie, proprio bestie che non hanno avuto mai un minimo di insegnamento, di disciplina, niente. Ne facevano di tutto e di più. Dice l'insegnante di quella classe, io l'ho conosciuta, ha detto che se n'era uscita da quella classe piangendo. La classe l'ha avuta mamma, ma dice bestie, proprio animali era stato bravo. Vabbè. Invece certe classi di Olbi erano molto più disciplinate, molto ti volevano anche bene, no? Come alunni. Dipende dalla classe che trovi. Dipende anche in che città sei, insomma, se sei a Napoli, quartieri spagnoli, non lo so, se sopravvivi lì. Magari c'è in classe qualche figlio del boss. E vai lì a fare sgarbi col figlio, me, che ti manda il padre o ti manda gli sgherri. Ma no, è detto. Sai, non bisogna mai fare il Salerno un fascio. Io ci sono stato in quelle zone. E ti posso dire che in realtà i napoletani sono abbastanza, come dire, abbastanza amichevoli, si affezionano pure, anche a volte un po' troppo. Però poi ci sono anche i posti dove questo non accade, però sai. Mi ricordo, io ero di stanza proprio lì, che avevo fissato con i coltelli, diciamo, questa diciamo che sempre i coltelli, tu ce l'hai, sì, ce l'ho fatta adesso, guarda, prego, con questa ti prepara anche la barba. Ma me la puoi regalare, quindi per farmi gli amici, io, quando andavo a licenza ne portavo sempre qualcuno. Eia. No, vabbè, io sono un po' prevenuto per via dei media, per come ti ripresentano. Sono molto prevenuto. Cioè, i napoletani, per come la penso io, ce l'hanno proprio geneticamente questa storia di fottere gli altri, imbrogliare gli altri, truffare gli altri, capito? Perché, vabbè, i media ti fanno vedere sempre la parte cattiva, truffatori, ladri, capito? Poi c'è gente anche lì onesta, famiglie rispettabili, insomma. Però sono abbastanza prevenuto, capito? Purtroppo è così. Non è che si possano fare grandi cose. Dappertutto c'è il buono e il cattivo. se c'è poco da fare. E così sarà lì. Ehi, ehi, va bene. Detto ciò, dai, mi mangio un budino al volo e basta, dai. Ok, abbiamo parlato abbastanza. Pomponio, vabbè, non credo sia rientrato. Antonello, ci sei? Niente, sarà con la bionda, me. Con la Peroni, eh? Poi quando è un po' col gomito alticcio comincia a dire, a un certo punto, e lo ripete, a un certo punto, a un certo punto, capito, c'ha quell'intercalare. Vero Antonello? Antonello? All'anima Capri, abbassa un po', è terribilmente forte la radio. Sì, ciao, Rappi 2, buona serata. Ma all'inizio è stato quasi incomprensibile, esageratamente forte, adesso è molto molto forte, però almeno si riesce a capire. Un po' esagerata come radio, tipica radio da studio a gogo. A me? Qua Santiago è meglio che non te lo dica, perché il suo smitter fa su e giù. Comunque devi benissimo. La radio così c'ha un leggero effetto, potremmo dire, barattolato? Un pochino? Gianfranco, cosa ne dici? Ma diciamo che è comprensibile, adesso è stato lontanato, è una radio umana comprensibile, dai, prima non tanto. Chi è? Questa è una portantina, non so se sia lui. Vabbè, Capri, se mi ascolti, dai, stavo chiudendo perché devo fare anche il caffè per me e per mamma, dai. E ci sentiamo le prossime. Riprendi Capri se riprendi. Ah, qua segna 9.20, 9.10, tra 9.15 e 9.20. Ehi, ciao Capri. Sei entrato un po' tardi, proprio adesso che... Almeno io sto chiudendo, dai. Ci sentiamo le prossime. Poca gente sta entrando, però... Cerchiamo di tenere a galla il canale, dai. Ciao Capri, ciao Gianfranco, ciao Antonello, sei all'ascolto, ciao a tutti, ciao ciao. Ok, ciao Marco, ciao Capri 2, buona serata a tutti, anche io sto chiudendo, ciao ciao.